E allora l'idea che questo meccanismo familiare appartenga alla costituzione biologica dell'essere umano implica la necessità che per noi l'idea della filiazione e l'idea della genitorialità siano inscindibili, perché rappresentano il modo attraverso cui, per il tramite dei nostri figli, che sono la nostra proiezione, noi siamo, tra virgolette, ancora in grado di incidere in questa società. Perché lo stesso discorso che molte volte si sviluppa in maniera un po' allegra, i figli sono il futuro della società, il domani appartiene a loro, dico, è un fatto che noi diciamo con una certa, come dire, magari rilassatezza, perché molte volte, quando sarà, è una prospettiva alla quale noi, come dire, potremo assistere da spettatori, ma potremo anche non esservi, no? Però il problema resterà in loro, perché sono loro che poi diranno, come ogni tanto qualcuno dice nelle fasi più critiche, ma perché mi hai messo al mondo, no? Se questa realtà, diciamo, fa schifo. E però è un fatto che noi dobbiamo tenere presente. E allora, da questo punto di vista, è vero altresì che rispetto a questo modello costitutivo familiare la responsabilità è molto grave, e soprattutto dipende dal fatto che la famiglia in quanto tale non è un'organizzazione culturale, non so, come un circolo ricreativo, quella è un'organizzazione culturale, la famiglia è un'organizzazione naturale, e c'è una bella differenza tra un'organizzazione culturale e un'organizzazione naturale, nel senso che l'organizzazione culturale può anche mancare e alla fine può non succedere nulla. Un'organizzazione naturale no, perché in quanto naturale risponde a bisogni essenziali e insostituibili della persona. E anche qui allora, rispetto all'idea della funzione insostituibile rispetto al ruolo genitoriale educativo, direi che lo stesso discorso che si fa ordinariamente rispetto alla etimologia del termine educare, cioè da educere, e in realtà è vero che risponde in qualche modo a quel comportamento che consente di trarre fuori, no? Quindi di portar fuori e di far emergere tutto quello che si trova all'interno di ciascuno di noi, che poi alla fine, per esperienza diretta, sappiamo essere molto di più di quanto noi lontanamente riusciamo ad immaginare, in senso positivo o in senso negativo. Esempio, nell'ambito della crisi, del modello familiare, della crisi della coppia, a me capitava, diciamo, adesso mi sono allontanato, ma perché non riesco ad avere più lo stomaco per affrontare, quando ai tempi avevo iniziato la pratica forense, cominciavo a seguire quello che ordinariamente si fa in un inizio di attività professionale, cioè le separazioni. Ma lì usciva il peggio dei soggetti, le cose che io lontanamente non avrei neanche mai immaginato nella più fervida fantasia. Al contrario, un modello di un certo tipo consente invece alla persona di trarre da sé il meglio, e per noi questa persona è nostro figlio. Tra l'altro, in questo tipo di rapporto, anche noi come genitori ci guadagniamo, sembrerà strano. Perché? Perché giustamente si rileva che nella relazione educativa c'è un rapporto di reciprocità, anche se su questo forse non si è riflettuto mai abbastanza. E questo poi capita però per esperienza diretta nella relazione con i propri figli. Chi educa e chi educato non sono distinguibili, e addirittura si possono cambiare i termini, ma ovviamente non i ruoli, che invece devono restare ben differenziati. Semplicemente, e qui riporto il pensiero insomma, di una persona che ormai per tutta la sua esperienza professionale si è occupata di questi problemi, Vittorino Andreoli, talora il figlio apprende dal padre e talora il padre impara dal figlio e quindi ne viene educato. Ora, sfido chiunque di noi padri, anche se insomma, siamo sempre in due qui, a non avere sperimentato nel corso della nostra vita profili in cui i nostri figli ci hanno dato, tra virgolette, delle buone lezioni. Ottimi, direi, a partire da quelli, per esempio, di quando si è alla guida di un autoveicolo. Mia moglie, che non è presente, che dice che bisogna evitare qualsiasi comportamento, perché poi sono al pronto soccorso, da lei arrivano i soggetti in condizioni, diciamo, poco significative. Quando c'è mio figlio, e mio figlio percepisce che io in qualche modo posso essere stato sollecitato, no? Dal mio compagno di corsia che mi ha tagliato la strada, mi dice: papà, guarda dall'altra parte. E ogni tanto lui, quando capisce che, come dire, il vicino di corsia l'ha fatto grossa, mi dice: papà, ti prego, evitiamo. E io effettivamente ricevo, come dire, quotidianamente delle lezioni, dico: effettivamente ha ragione mio figlio, eh? Ma non è che parliamo, cioè, sai, quello è un uomo vissuto, quindi sa, no, cioè c'ha un suo modello che ha costruito nel tempo, ovviamente facendo la sua esperienza, e che mi trasmette, e per me è un modello forte, perché c'ha ragione. Questo poi ci porta alla valutazione della oggettività delle cose, perché oggettivamente ha ragione e nessuno è in condizione di dargli torto, e lui questo lo sa, tant'è vero che lo afferma con sicurezza incontrovertibile. Cioè, su questo poi non si discute, perché nessuno è in grado di discutere su un fatto che oggettivamente si presenta così come esso è. E allora, da questo punto di vista, noi che impariamo, e direi noi padri, perché in questo la relazione con la madre è diversa, noi padri dire, abbiamo più da imparare rispetto ai nostri figli, di quanto ne possono avere le nostre mogli. E allora, da questo punto di vista, come si realizza questo processo biunivoco educativo dove anche noi padri apprendiamo dai nostri figli? Ma se l'educazione è un processo che tende al miglioramento personale, è evidente che questo passa per il rispetto del modo di essere di ciascuno. E questo è un fatto molto delicato, cioè un problema non facile da gestire per tutta una serie di ragioni, alcune delle quali sono facilmente intuibili, altre sono un po' più sottili. Perché? Ci possono essere due atteggiamenti che per primi noi padri costruiamo con i nostri figli. Il primo è quello di operare con la logica impositiva, che però è una logica che può andar bene in una certa età del figlio, no? Che corrisponde sostanzialmente a quando il figlio è molto piccolo, no? In cui il nostro ruolo è quello di dire no. Ma questa non è che è una fase che si estende, no? Fino a quando lui sarà andato fuori di casa, perché questo è il rischio che corriamo noi, soprattutto noi padri, dico, forse esclusivamente noi padri. Perché? Perché per noi è più facile dire no, punto. Perché pensiamo che questo sia l'espressione del modello dell'autorevolezza. Ma questo è un errore di fondo colossale. Perché? Perché quello che noi rischiamo di innescare nel figlio, non ovviamente nel bambino che ha 2 anni, ma in quello che progressivamente va crescendo, e quindi già a partire da 6, 7, 8 anni, anche perché poi ovviamente via via il livello scende man mano che il tempo passa, quindi ciò che era vero 5 anni fa per il bambino di 6 anni ora non è più certamente vero, inneschiamo o un meccanismo di ribellione incondizionata, per cui poi si crea lo scontro, oppure facciamo di questa persona un minus abens, perché lo abbiamo tarato secondo la prospettiva sbagliata per la quale questo figlio deve essere come diciamo noi. Ma anche qui ci sarebbe da interrogarsi: come diciamo noi e perché noi diciamo questo? Cioè, qual è il fondamento di ciò che noi trasmettiamo al nostro figlio? Perché potrebbe essere anche, dico, sembrerà paradossale, del tutto sbagliato. E su questo per primi noi padri ci dobbiamo interrogare, e a questo risponde quella funzione formativa continua del genitore, per la semplice ragione che nessuno di noi ha studiato per diventare genitore. Qualcuno forse prima del matrimonio si è presa la laurea per essere coniuge prima e genitore poi, non credo. Cioè, è una cosa che noi in qualche modo ci siamo trovati d'amblè, cioè siamo arrivati, dice sì, adesso che si fa? Che ovviamente, diciamo, presenta molti svantaggi, qualche vantaggio lo presenta se siamo però assistiti per esempio dal nostro coniuge in un certo modo, perché è un lavoro che si può fare a due. Non solo, perché il rischio che noi corriamo nel momento in cui adottiamo questa logica impositiva, diciamo, diremmo noi il linguaggio british che taglia carne e ossa, è di manipolare il figlio, perché noi lo stiamo manipolando, cioè lo stiamo costruendo secondo un nostro modello conformativo che non lo rispetta come essere persona. e che poi ci traduce l'idea sbagliata del figlio perfetto, no, del figlio migliore, ma attraverso quale processo e che cos'è per lui meglio? Perché questa domanda a noi sovviene spesso, cioè sto facendo bene o sto facendo male? Da qui allora la necessità di trovare mezzi appropriati per fini che siano obiettivamente validi per nostro figlio, perché non capiti quello a cui faceva riferimento Einstein, uno dei suoi celebri detti, per cui noi viviamo in un'epoca di mezzi perfetti e di mete confuse, no? Il genitore ha poche idee e ben confuse, e quindi evidentemente con questo criterio non può andare da nessuna parte.